20 senatori in più, cosa che non mi sembra al Senato, beh, lui ci avrà, ci deve affrontare una crisi economica gravissima, interna, internazionale, la crisi dell'Unione Europea, la crisi dell'economia globalizzata, e non potrà avere quello che ha avuto invece il governo Prodi sostanzialmente, e cioè l'appoggio dei sindacati. Non è vero che per i sindacati tutti i governi sono uguali, queste sono sciocchezze. I sindacati americani sono per il Partito Democratico, il sindacato tedesco è per i socialdemocratici, e i sindacati britannici sono per il Partito Laburista, i sindacati, anche quelli ex cristiani che si chiamano democratici francesi, sono per i socialisti. Questa è una sciocchezza, che il sindacato deve essere per la sinistra, non tutti i governi sono uguali. Corretto, come ipotesi è molto giusta. Vediamo la vittoria del Partito Democratico. Potrebbe governare, tu dici, anche con una piccola maggioranza di seggi al partito. E certamente, perché convergerebbe... Sì, perché potrebbe, senz'altro, sempre che abbiano senatori, contare sui voti della sinistra arcobaleno. Che la sinistra arcobaleno che ha retto il governo Prodi, che ha permesso l'ampliamento della base di Aviano, che ha sorretto il governo Prodi, che ha riconfermato la missione in Afghanistan, che ha mandato e che hanno riconosciuto il Kosovo. E immagini se vuole cadere, se vuole che cada di nuovo la sinistra per il caso che vinca, e dovrebbe appoggiare un governo Veltroni, insomma. Certo. E poi anche l'unione di centro su Via, erano un passo dall'accordo con Prodi, per Ferdinando Casini con Veltroni sarà molto più facile, insomma. Però quello che mi stimola molto... In fondo loro hanno promesso la presidenza del Senato. Prendono il mio amico Francesco D'Onofrio, lo fanno presidente del Senato, la cosa è fatta. A proposito...